Il 15 aprile del 2008 c'erano le elezioni. Erano le elezioni del primo Partito Democratico. Ve lo ricordate? Più o meno adesso inizia a farsi chiaro, no? Quelle che dovevano vincere a tutti i costi. Ora, io stavo a casa davanti alla televisione a vedere le forchette, gli exit poll, no? E quando mi accorgo che più o meno la situazione era ancora più drammatica di quella che era stata dipinta fino a qualche settimana prima, inizio ad averla un po' a male. Esco e vedo una cosa bellissima. A un certo punto era primavera e c'era stato però quel giorno proprio nel quartiere dove abitavo allora un temporale, e c'erano, sapete, quei fiori rosa che stanno su degli alberi dai parti del Tuscolano, chi bazzica da quelle parti. Ho scoperto si chiamano i fiori di Giuda. Insomma, erano appena fioriti, erano caduti tutti quanti per terra, c'era un letto rosa per tutti i viali del Tuscolano, una cosa anche bellissima, evocativa, no? Sono tornato a casa e ho visto che la forchetta elettorale era ancora più espansa. Mi sono incazzato, si può dire incazzato in radio, insomma. Vabbè, insomma, mai l'ho detto. Ecco. Ho spento la televisione, ho tirato il telecomando come faceva Nanni Moretti, perché è una cosa che fa molto figo, insomma. E ho iniziato a dire le preghierine, ho iniziato a dire a parlare con Gesù in qualche modo, e dicendo alcune cose a Gesù pian piano iniziava a dire Gesù gli piaceva ricamminare, mi sono detto, e mo un passo, mo l'altro, un passo e poi l'altro. Gesuino se ne stava a passeggiare per la via. Mo per la via di Gesuino ci stava il sole, che era il sole alto, il sole bello, il sole che ride, perché era primavera, e sempre, sempre a primavera ci sta il sole, e a Gesuino il sole gli piaceva, perché gli pareva che i problemi, le sofferenze, i dolori di tutti quanti, quasi quasi, si andavano a sciogliere dentro al sole caldo di primavera. Mio padre immaginava che la lotta di classe fosse un'occasione che il mondo poi cambiasse. Immaginava fosse in bell'abito da sera e che fischiasse a vento a far andare una bandiera. Pensava che bastasse un poco d'obbedienza alle regole non scritte della coscienza. Pensava che bastasse avere ragione, non fosse ancora tempo di rivoluzione. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Lai la la la la la la la. Così mio padre il giorno in cui pensò di aver capito uscì di casa a farsi la tessera al partito. Pensava fosse il modo per il proletariato di uscire dalla morsa dei padroni e dello Stato, e con piena fiducia entrava in sezione, finì per trovarci una nuova religione che invece di pregare una vergine commossa lanciava in alto il grido bandiera rossa. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Allora disse, figlio, allora ho capito, per la rivoluzione bisogna aver l'invito. C'è chi questa rivolta sa farla di mestiere, ma non ha messo piede mai all'inferno di un cantiere. Di case e salari, dei bisogni della gente, ai nuovi risorti non interessa niente. Il vero obiettivo soltanto è il guadagno per l'uomo che un tempo chiamavo compagno. La la la la la la la la la. Mio padre allora il giorno in cui sentì più forte il male finì con il recarsi in cabina elettorale per esercitare il suo diritto di voto del culto operaio di cui ancora era devoto. E mentre cercava l'effigie dei suoi santi una brutta sorpresa dove trovarsi avanti sulla scheda non c'era, si accorse veloce di alcuna casella in cui mettere la croce. E restò come di sasso e con l'espressione stanca, la scheda elettorale era proprio tutta bianca, non c'era neanche un segno, un colore, una parola, e allora si sentì come stringere alla gola e capì tutto ad un tratto che la democrazia gli aveva cancellato anche la fantasia, capì che non bastava più avere ragione, forse era questo tempo di...